L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con il riassunto della settimana che per noi dell'ottavo giorno si è appena conclusa, iniziata sabato scorso 13 giugno e arrivata appunto fino a ieri venerdì 19 giugno. Una settimana polarizzata su due notizie importanti, una viene dall'estero, l'Iran, con tutte le conseguenze poi del voto per scegliere il nuovo presidente iraniano, e in Italia invece le inchieste, in particolare di Bari, su e con attorno tutto il contesto legato a Berlusconi e alla politica italiana. Su questa notizia naturalmente ci concentreremo anche noi, ma non solo, perché abbiamo tanto altro da raccontarvi. Partiamo allora subito con i servizi, le interviste che sono già andate in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Apriamo doverosamente con l'Iran, che venerdì scorso, 12 giugno, va al voto, era andato al voto per scegliere il nuovo presidente. Questa è la situazione aggiornata sabato mattina con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Mai un presidente uscente aveva perso quando si era ripresentato per il secondo mandato, e anche questa volta è stato così. La Repubblica Islamica è evidentemente affezionata alle statistiche, probabilmente un po' meno, anzi forse molto meno, alla precisione dei conteggi elettorali, perché la marea di votanti che ieri si era recata alle urne sembrava in gran parte che appoggiasse il candidato rivale di Ahmadinejad, Mir Hussein Mousavi. Che cosa è successo? È successo che in realtà Ahmadinejad, con l'appoggio della guida suprema Khamenei, è probabilmente riuscito, avendo il potere, a manovrare il voto. In qualche modo la sovranità religiosa ancora una volta ha prevalso sulla sovranità popolare. Questa dunque è la scena come si presenta a Negri sabato mattina, quindi ad inizio giornata, ma gli eventi precipitano rapidamente perché da un lato Ahmadinejad viene riconfermato presidente, tra l'altro con un larghissimo consenso, 62,6% di voti contro i soli 34,7% dello sfidante Mousavi, e arriva anche l'investitura repentina, precipitosa, della guida suprema iraniana Khamenei. Però il voto viene contestato e così si mette in moto la macchina dei cortei dell'opposizione, la quale innesca peraltro disordini, scontri, ci sono anche feriti e morti da segnalare. Le folle oceaniche in piazza a favore di Mousavi, ma in qualche caso anche per Ahmadinejad, si riversano nelle strade di Teheran praticamente per tutti i giorni di questa settimana. Con Adib Fateh Ali, martedì alle 13, riascoltiamo il punto della situazione attraverso soprattutto la lente dei giornali arabi. Teheran brucia, preludio di rivoluzione. L'intifada degli stendardi verdi. Sono questi alcuni dei titoli d'apertura sulla stampa araba moderata per le violenze scoppiate nella capitale iraniana subito dopo il contestatissimo annuncio della vittoria di Mahmoud Ahmadinejad. Se il saudita al-Sharq al-Awsat scrive che in Iran il peggio deve ancora arrivare, il giornale libanese filo-siriano As-Safir risponde: è schiacciante vittoria che risarcisce gli Hezbollah libanesi usciti sconfitti nelle elezioni del 7 giugno scorso. Al di là degli schieramenti arabi, quel che avviene in Iran segna una crepa importante nel regime degli Ayatollah, commenta invece un politico arabo alla TV Al-Arabiya. Sulle vicende iraniane interviene anche l'Unione Europea, chiede chiarimenti, e poi martedì entra nell'agone anche l'America di Barack Obama. Bisogna dire che il presidente americano si dimostra coerente con il discorso fatto qualche settimana fa al Cairo e con l'idea della sua amministrazione di una sostanziale non ingerenza negli affari interni degli altri paesi, a cominciare appunto dall'Iran. Ci racconta tutto Sergio Nava. My hope is that the Iranian people will make... Spero che le autorità iraniane faranno il passo giusto per rispondere alle voci e alle aspirazioni del popolo. Così il presidente americano Barack Obama ha ribadito ieri la propria opinione sugli ultimi sviluppi in Iran, evitando di prendere posizioni troppo esplicite per non compromettere il faticoso dialogo avviato con le autorità di Teheran. Obama ha ribadito la profonda preoccupazione degli Stati Uniti e della comunità internazionale per le incertezze e le violenze post-elettorali. Ma il vero focus del presidente americano ieri nell'incontro con l'omologo sudcoreano Lee Myung-bak è stata la sfida atomica lanciata da Pyongyang. La Corea del Nord pone una grave minaccia al mondo, ha detto Obama, che ha ribadito come gli Stati Uniti faranno di tutto per impedire al regime di Kim Jong-il di possedere armi nucleari. Il presidente statunitense ha pure rivolto un appello alla comunità internazionale affinché aumenti le pressioni per lo smantellamento del programma nucleare nordcoreano, fino ad inasprire, se necessario, le sanzioni, che peraltro hanno già ottenuto un giro di vite la scorsa settimana. Per Obama è dunque finita la politica politica del bastone e della carota, grazie alla quale Pyongyang ha finora estorto concessioni, creando ad arte crisi a ripetizione. Ora romperemo lo schema, ha detto. L'affare si ingrossa sempre di più giorno dopo giorno, si arriva anche a invocare la verifica della regolarità delle elezioni, quindi si va a verificare se ci sono stati o meno dei brogli, e soprattutto la vicenda iraniana valica i confini nazionali e quelli che sono gli stessi ambiti della politica. Addirittura la nazionale di calcio iraniana, che scende in campo mercoledì per le qualificazioni ai mondiali, si schiera a favore dello sfidante Mousavi, ci spiega come Dario Ricci. Il calcio che unisce una nazione, il calcio che divide un popolo. Scendere in campo a Seul, a migliaia di chilometri da casa, per giocarsi insieme il sogno della qualificazione mondiale, pur se divisi da diverse fedi politiche. Così i giocatori della nazionale iraniana hanno affrontato la trasferta contro la Corea del Sud, decisiva per il cammino verso Sudafrica 2010. E alcuni di loro, come Ali Karimi, considerato il Maradona d'Asia, hanno indossato una fascia verde. Verde come il colore usato da Hossein Mousavi e dai suoi sostenitori durante la campagna elettorale. Verde come l'ondata della protesta che scorre tra le strade di Teheran e del paese. Il sostegno a Mousavi è arrivato anche dai gruppi di tifosi iraniani sugli spalti dello stadio coreano. Poi si è giocato, con la gara trasmessa in diretta dalla TV di Stato iraniana, e per l'Iran è arrivato un 1-1 che vuol dire addio ai sogni mondiali, nel gruppo che ha qualificato, oltre alla Corea del Sud, anche quella del Nord. Ora si torna a Teheran per un'altra partita, che vale più di una Coppa del Mondo e che è ancora tutta da giocare. Uno dei momenti più alti ma anche tesi della settimana arriva giovedì. A Teheran infatti la manifestazione di protesta è l'ennesima di questa settimana, ma soprattutto si trasforma in un momento di lutto per le vittime della repressione delle forze dell'ordine. Ci racconta tutto Cristina Balotelli. Migliaia di sostenitori di Mousavi, alcuni vestiti di nero in segno di lutto per i morti dei giorni scorsi, sono scesi in piazza a Teheran per il sesto giorno consecutivo. La maggior parte dei giornalisti stranieri hanno dovuto abbandonare l'Iran per il mancato rinnovo del visto. Così i social network e YouTube sono diventati possibili luoghi di informazione con le dovute riserve. Su YouTube si trovano i video di manifestazioni, rivolte, botte e disordini. Il grosso della protesta continua comunque ad avvenire nelle strade, nelle piazze e nelle università delle grandi città, soprattutto Teheran. Sfidando l'apparato di sicurezza, i manifestanti sanno che rischiano grosso. Ieri è arrivato dalla magistratura il divieto d'espatrio a due figli di Rafsanjani, sotto inchiesta per aver avuto un ruolo negli incidenti di questi giorni. Rafsanjani, che è uno degli uomini più potenti dell'Iran, è considerato tra i principali sostenitori dell'ex candidato Mousavi. In questi giorni bisogna ricordare che sono scesi in piazza anche nelle nostre città italiane gli studenti iraniani che vivono nel nostro paese. E martedì Maria Grazia Pusceddu li ha seguiti per le strade, per le vie di Milano e ha cercato di sentire le loro voci. Eccole. Ci sembra impossibile che Ahmadinejad sia stato dato per vinto quando nei sondaggi veniva dato per vinto Mousavi, e questo è palese a tutti, e vogliamo che la comunità europea internazionale non riconosca questo voto e non riconosca Ahmadinejad come presidente dell'Iran, e che in caso si vengano annullate queste elezioni e ne vengano fatte altri in modo più onesto e lucido a tutti gli iraniani. Io sono andato a votare, io ho votato Mousavi, cioè, e pensavo che vince lui, cioè anche lui prima, notte prima di elezione, quando che è finito elezione, ha detto che vinciamo noi, siamo sicuri che vinciamo. Io voglio dire che noi non vogliamo fare guerra con nessuno, tutto pacificamente, però veramente vogliamo sapere 25 chilometri di catena umana dove sono finiti. Torniamo adesso in Iran, perché il giorno più atteso a Teheran di questa turbolenta, a suo modo indimenticabile, settimana è sicuramente rappresentato da venerdì, giorno tradizionalmente riservato alla preghiera. Preghiera che in questo caso, in via del tutto eccezionale, viene guidata direttamente da Khamenei, e poi è giorno di nuove manifestazioni. Ci sono importanti sviluppi, importanti passi in avanti, indietro, poi dipende dai punti di vista, nella vicenda. Ecco com'è andata nel GR delle 19 di ieri. Non ci sono stati brogli nelle elezioni e Ahmadinejad è stato scelto dal popolo. Nel lungo sermone, 1 ora e 45 minuti per la preghiera del venerdì, la guida suprema Ayatollah Ali Khamenei ha esortato a mettere fine alle manifestazioni nelle strade. Chi vorrà continuare su questa via è stato avvertito. Gli agitati non sono in grado di pensare in modo chiaro, quindi rischiano di perdere la retta via, ha detto Khamenei, e magari di finire in carcere. Un migliaio, secondo gli attivisti per i diritti umani, sarebbero già rinchiusi. Ora il leader dell'opposizione, Mousavi, si trova ad un bivio. Una grande manifestazione era stata convocata per domani, ma le autorità l'hanno proibita. L'imam gli ha lanciato, secondo gli esperti, un chiaro messaggio: obbedisci oppure sei fuori dal sistema. Domenica. E adesso tuffiamoci nelle storie e nelle cronache dello sport. Lasciamo per ultima, ve lo diciamo subito, la piega inaspettata e negativa che prende la trasferta in Sudafrica della nazionale italiana di calcio. Diamo prima di tutto il giusto onore ad un campione, ad un eroe delle due ruote. Sto parlando di Valentino Rossi, che domenica firma un'altra delle sue l'ennesima imprese della sua straordinaria carriera. Sentiamo allora il racconto di Dario Ricci nel GR Sport di lunedì mattina. È Valentino Rossi a meritare l'apertura della nostra pagina sportiva. Nel Gran Premio di Catalogna il pesarese firma l'impresa, conquistando la vittoria con un sorpasso da antologia sull'altra Yamaha di Jorge Lorenzo proprio all'ultima curva. Sentiamo Rossi al microfono di Italia 1. È stato un sorpasso abbastanza pulito, però pulito ma abbastanza al limite, perché comunque la curva l'ho fatta benissimo ed è stato veramente un super sorpasso. Naturalmente quando fai le gare così e quando provi un sorpasso così è normale che si può sbagliare, perché si è talmente tanto al limite, però è il nostro sport, è il nostro mestiere e questa volta mi è venuto bene, ma comunque me ne sono venuti spesso bene. Sono piuttosto coraggioso e comunque mi sono confermato una bestia nera nel corpo a corpo. Lo spagnolo rende onore al talento del pesarese. Voi sapete che il pilota vogliono vincere, ma quando non si vince il secondo posto è il posto più bello. Valentino è stato più bravo che me. Io non mi aspettavo che lui entrasse nell'ultima curva e non ho chiuso la linea. Ma vabbè, così, il pubblico si è divertito e noi siamo lì regolare. Terzo posto per Stoner e ora Rossi, Lorenzo e proprio Stoner sono tutti e tre in testa alla classifica mondiale con 106 punti. Anche il basket celebra i suoi campioni in questa settimana. Nell'NBA vincono i Lakers di Kobe Bryant, mentre più prosaicamente nel nostro campionato si riconferma per l'ennesima volta campione d'Italia Siena, che vince il suo terzo scudetto consecutivo. Il commento è firmato da Flavio Tranquillo. È scudetto per Siena, non inaspettato di sicuro, ma non per questo meno meritato e non per questo meno importante. Con una grande prova in gara 4, con una grande stagione in cui la squadra è stata sconfitta una sola volta, ma soprattutto ha giocato una pallacanestro di grande livello, di grande spessore ai due estremi del campo. Ecco, la pallacanestro, quella che Siena ha giocato, diventa definitivamente, con questo terzo scudetto e con tutti i numeri clamorosi che ci sono attaccati, un modello cui ispirarsi per tutti. Non necessariamente per battere sulla singola partita o sulla singola stagione oggi il Monte dei Paschi, ma per provare a emulare il modello di sviluppo che ha portato Siena a questo punto. È vero che non è stata una finale particolarmente appassionante, fatta salva gara 3, ma non per questo è una finale che non ha dato motivi di riflessione a tutto l'ambiente. E poi non ci possiamo dimenticare della Formula 1, perché il braccio di ferro tra la FIA, cioè la Federazione Internazionale, e la FOTA, che invece è l'associazione delle scuderie capitanate in questa battaglia dalla Ferrari, il braccio di ferro, dicevo, continua, anche se Mosley anche ieri ha detto di sperare ancora di vedere i team in pista l'anno prossimo. Insomma, il rischio di rottura è molto forte. In tutto questo l'impressione è che i Gran Premi, quindi la Formula 1 che conta, quella che si corre in pista, venga un po' trascurata, passi in secondo piano. Sentiamo il servizio di Dario Ricci firmato ieri mattina. Regolamenti, futuro della Formula 1, competitività. Ma al cuore del braccio di ferro tra Federazione Internazionale e Associazione dei Team ci sono i soldi e il modo di gestirli. E allora l'apertura del presidente della FIA Mosley potrebbe far quadrare il cerchio. Tetto al budget che per il 2010 passa da 45 a 100 milioni di euro e via libera ai criteri di controllo controlli di spesa voluti dai team, Ferrari in testa, non troppo desiderosi di sbandierare ai 420 bilanci, introiti e costi. Poi però in Inghilterra c'è anche un gran premio da correre, con un nuovo re inglese, Jenson Button, nella sua Brown GP, pronto a prendere il posto dell'altro suddito di sua maestà, il campione del mondo Lewis Hamilton, relegato però nelle retrovie dalla sua McLaren. E la Ferrari? A Silverstone la F60 avrà telaio più leggero e nuova ala anteriore. Massa e Raikkonen sperano basti per puntare almeno al podio. E come anticipato veniamo alle vicende, alle vicissitudini, alle tribolazioni della nazionale di Marcello Lippi in Sudafrica. L'Italia è impegnata nella Confederation Cup, la squadra italiana parte bene, piuttosto bene, perlomeno con gli Stati Uniti, una vittoria confortante 3-1. Poi arriva il blackout improvviso e in parte inspiegabile contro l'Egitto giovedì. Ed ora serve soltanto un miracolo contro la corazzata brasiliana. Sentiamo Stefano Piatto. Poco ritmo, nessuna verticalizzazione, punte isolate. L'Italia non ripete il bel secondo tempo di Pretoria contro gli Stati Uniti e cade nella rete dei faraoni. Lippi ritrova Cannavaro e cambia il tridente per due terzi. Fuori Girardino e Camoranesi, dentro i Quinta Rossi. I campioni d'Africa rispondono con cinque difensori e marcatore uomo che soffocano ogni iniziativa italiana. Lo svantaggio arriva al 40° grazie a un colpo di testa di Omos su calcio d'angolo, salto a vuoto di De Rossi e l'egiziano Buca Buffon. Molto cuore nella ripresa ma con scarsa lucidità. La difesa egiziana rischia soltanto al nono quando sul lancio di Quagliarella Iaquinta aggancia due passi dal portiere ma perde il passo. Italia fatica, Lippi inserisce Montolivo, Toni e Pepe. Quattro occasioni per gli azzurri, una traversa di Iaquinta ma il portiere Ladari blocca tutto. Il pareggio non arriva e gli azzurri escono sconfitti da una gara che avrebbero dovuto vincere per puntare al primato nel girone e per evitare la Spagna in semifinale. Per riprendersi dalla storica e inaspettata sconfitta, i ragazzi di Lippi dovranno ora battere il Brasile e sperare che gli egiziani non travolgano gli States per evitare che la trappola della differenza rete riservi loro brutte sorprese e li costringa a fare le valigie anzitempo. Lunedì. E siamo arrivati a parlare di Berlusconi, non ancora di quelle che sono le vicende in campo nazionale, soprattutto quelle che gravitano attorno all'inchiesta di Bari con tutte le sue conseguenze e tutti i suoi livori, ma parliamo dell'appuntamento di lunedì alla Casa Bianca, perché a Washington si celebra il primo faccia a faccia tra il presidente italiano e il suo collega americano. Sul piatto ci sono soprattutto il destino dei detenuti di Guantanamo. Di fatto l'Italia promette di accogliere 3 dei detenuti di Guantanamo nel nostro paese e poi l'impegno degli italiani in Afghanistan. E soprattutto c'è anche da stabilire quella che è la relazione personale tra i due presidenti, perché per la prima volta si trovano così a lungo uno di fronte all'altro. Ecco come ha letto l'incontro l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Non era per nulla scontato il calore del presidente americano Barack Obama nei confronti del premier italiano Silvio Berlusconi. Prima la gaffa dell'abbronzato, poi le vicende Noemi e Mills, infine la visita di Gheddafi a Roma con il contorno di accuse di terrorismo agli Stati Uniti. E invece Berlusconi, ieri sera, dopo 2 ore di colloquio alla Casa Bianca con Obama, ha capovolto le previsioni della vigilia, ottenendo dal presidente americano un endorsement alla sua leadership e alla presidenza del G8 che vale molto di più di qualche punto nel consenso tra gli elettori. Oltre a piacermi personalmente, ha detto Obama di Berlusconi, i nostri due popoli si piacciono perché condividono gli stessi valori e gli stessi ideali. E Berlusconi ha apprezzato le doti di Obama che su tutte le questioni internazionali e sull'agenda del G8 sa prendere decisioni concrete e soprattutto di buon senso. Con lui gli Stati Uniti sono davvero in buone mani. Sull'incontro tra Obama e Berlusconi adesso riascoltiamo il commento di Stefano Silvestri martedì nel GR Extra Large. Silvestri, lo ricordo, è presidente dell'Istituto Affari Internazionali. L'Italia ha un po' un problema di credibilità e di status a livello internazionale, quindi migliori rapporti con gli Stati Uniti non giovano semplicemente al governo, ma giovano un po' al paese in questo frangente. Quindi diciamo questa è un po' l'operazione. Forse l'aspetto più concreto doveva essere quello della operatività e dell'efficacia del G8, cioè di un rilancio del G8, ma lì i risultati mi sembrano più dubbi, soprattutto perché il G8 si trova nella situazione di avere dopo un G20 che sarà un G20 americano, cioè negli Stati Uniti, e gestito direttamente da Obama. Questo è un po' un rischio per l'Italia, che preferisce evidentemente il G8 o anche il G14, cioè un G8 allargato, a un allargamento al G20 che poi in realtà diventa 22, 23, 24, e in cui il ruolo italiano è molto più diluito. Si è letto nella giornata di oggi su alcuni quotidiani che il fatto che l'Italia accetti di prendere i tre prigionieri di Guantanamo possa essere molto utile anche all'amministrazione Obama, innanzitutto nel rapporto con gli altri alleati europei e poi anche internamente. Lei cosa crede? Ma sì, c'è in ballo questo accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, proprio sui prigionieri di Guantanamo, e c'è in ballo una certa insofferenza del Congresso rispetto allo stesso Guantanamo, a questo ritardo nella sua chiusura o disbandamento, al fatto che Obama ha dei problemi, insomma, nei confronti di questo carcere. Non è così facile tornare indietro dopo tanti anni. Quindi ogni disponibilità all'aiuto da parte di un alleato è importante. Diciamo che prendere tre prigionieri non è moltissimo, è però un segnale positivo per Obama, e potrebbe incoraggiare la situazione sia con gli altri alleati europei sia appunto con il Congresso. No, nel complesso questo è un grosso favore che Berlusconi fa ad Obama. Permettetemi un volo pindarico che mi porta a parlare di Israele, che poi in realtà è una delle priorità nell'agenda di Obama. Domenica Netanyahu parla all'Università Bar-Ilan di Tel Aviv, un discorso molto atteso quello del premier israeliano. Vediamo nell'analisi di Ugo Tramballi se poi le attese sono state rispettate nelle parole di Netanyahu. Troveranno frasi di circostanza diplomatica, ma alla fine nemmeno gli americani saranno soddisfatti. Più di un grande discorso sulla pace in Medio Oriente, quello di Bibi Netanyahu è sembrata l'arringa di un avvocato difensore che voleva dire il minimo necessario tentando di accontentare tutti. Lo saranno in pochi, non gli alleati nazionali religiosi israeliani, non gli americani, ancor meno i palestinesi. L'amministrazione americana voleva sentire due cose: Stato palestinese e congelamento degli insediamenti ebraici nei territori occupati. Delle due, il premier israeliano ne ha detta meno di una. Scontato il no al congelamento delle colonie, Netanyahu ha effettivamente citato la parola magica, Stato palestinese, ma l'ha talmente riempita di condizioni da rendere estremamente difficile la realizzazione di quello Stato in tempi accettabili. Per essere come Barack Obama non bastano un discorso e l'aula di un'università. Bisogna anche avere qualcosa di straordinario da dire. L'ottavo giorno, martedì. Apriamo il capitolo economia. Vi avverto, sarà uno stilicidio per quanto breve di cattivissime notizie. Procediamo dunque con ordine. Martedì apre le danze il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Sentiamo la cronaca con Sergio Nava. Fin da subito si dovrebbe cominciare a considerare le strategie di uscita dalla recessione. Con questo messaggio che guarda ai prossimi vertici della G8 e del Consiglio europeo, il governatore di Banca Italia e presidente del Financial Stability Board, Mario Draghi, si è presentato al Wirtschaftstag 2009 di Berlino. Draghi ha proposto l'uscita da politiche di bilancio eccessivamente espansionistiche per gestire la riduzione del debito pubblico, insieme a un abbandono dell'attuale orientamento delle politiche monetarie per mantenere l'ancoraggio delle aspettative di inflazione. Ora che ci troviamo nel mezzo di una strategia disegnata come risposta alla crisi, occorre dare una risposta strutturale e regolamentare che mira a ricostruire un sistema finanziario più robusto e meno soggetto al rischio sistemico, ha detto Draghi, il cui obiettivo in ultima analisi è quello di ripristinare un sistema finanziario che operi con meno debito e sia più immune dal set di incentivi alla base di questa crisi. Sulla fronte della remunerazione dei manager, Draghi ha invece chiesto che i nuovi principi internazionali vengano attuati entro la fine dell'anno. Il giorno seguente, mercoledì, non si può certo dire che l'OCSE arrivi in soccorso del nostro paese. Proprio mentre gli ultimi dati parlano di un debito pubblico ormai astronomico, siamo arrivati a 1.750 miliardi di euro nel mese di aprile. Dicevo, in tutto questo l'OCSE arriva a dare un'ennesima mazzata alla situazione economica dell'Italia. Sentiamo Valeria Terosa. La recessione in Italia è profonda. Per la precisione, da Parigi scrivono che la recessione che ha colpito il paese è sorprendentemente forte, tanto che quest'anno il calo del PIL sarà del 5,3%. L'anno prossimo il rialzo ci sarà, ma sarà di appena lo 0,4%. Ad attutire il colpo ci sono i bilanci delle famiglie e quelli delle imprese, abbastanza sani. Altro fatto fatto da non sottovalutare è che, messe alla prova dagli eventi, le banche italiane hanno retto l'onda d'urto, anche se adesso è venuto il momento di ricapitalizzare. Queste tre condizioni potrebbero permettere alla ripresa, quando verrà, di essere più robusta che altrove. Per il momento però i consumi vanno giù, gli investimenti fissi soffrono e le esportazioni precipitano. Gli analisti dell'OCSE osservano che il governo non poteva fare di più per fronteggiare la crisi, perché il debito italiano è troppo alto. Per il futuro, avverte l'OCSE, il governo dovrà impegnarsi seriamente per ridurlo, attraverso il controllo della spesa e attraverso nuove riforme delle pensioni e della sanità. Alle previsioni pessimistiche dell'OCSE sull'Italia seguono una serie di riscontri. Uno in particolare, decisamente autorevole, giunge giovedì da Confindustria, dal suo centro studi. Il resoconto dell'inviata Chiara Di Michele. Si presenta ripida e faticosa la strada per la ripresa dell'Italia. Nel 2009 il prodotto interno lordo calerà quasi del 5%, segnando un timido più 0,7% nel 2010. In aumento deficit, debito pubblico e disoccupazione, che passerà dall'8,6% di quest'anno anno al 9,3 del prossimo. La crisi costerà 1 milione di posti di lavoro in 2 anni. Le previsioni sono arrivate ieri dal centro studi di Confindustria, che avverte: nonostante alcuni segnali di miglioramento, l'emergenza non è ancora passata, a sottolinearlo il presidente degli industriali Emma Marcegaglia, che insiste sull'impellenza delle riforme strutturali. Se non facciamo quelle riforme necessarie di cui tutti parliamo ma che al momento non si vedono, il rischio vero è che ci metteremo 5 anni almeno per tornare ai livelli di crescita vissuti prima della crisi, cioè nel 2007. Le riforme per Emma Marcegaglia si chiamano liberalizzazioni, sburocratizzazione, infrastrutture, legalità e istruzione. Poi c'è anche il Mezzogiorno, che deve voltare pagina, spiega il numero uno degli industriali, altrimenti non ci saranno crescite sostenute. In sostanza, OCSE e Confindustria ci hanno detto che l'economia italiana è in difficoltà e che i tempi di ripresa saranno piuttosto lunghi, sono ancora lontani. E ieri l'Istat ha messo il suo carico da 90 perché ha annunciato che per la prima volta da 14 anni a questa parte sono diminuiti in Italia gli occupati. Sentite un po' di numeri con Paola Cavadi in diretta ieri nel GR XL. Calano gli occupati nel primo trimestre del 2009 ed è la prima volta in 14 anni. A dirlo è l'Istituto di Statistica nella sua rilevazione mensile sulle forze di lavoro. E in cifre l'Istituto parla di un calo dell'occupazione dello 0,9%. A perdere il lavoro nei primi 3 mesi dell'anno sono stati 426.000 italiani, ne hanno però trovato uno nuovo 222.000 stranieri, il che vuol dire che il saldo è pari a 204.000 unità di lavoro in meno. Cala il numero degli occupati a tempo determinato, sono 154.000 in meno, i collaboratori sono 107.000 in meno, mentre i lavoratori autonomi calano di 154.000 unità. Il Mezzogiorno è il più colpito dalla flessione, con 114.000 posti di lavoro in meno, mentre il Nord e il Centro perdono rispettivamente 46.000 e 44.000 occupati. E questo calo riguarda soprattutto la componente maschile, hanno perso il posto 162.000 uomini a fronte di 42.000 donne. Veniamo al tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è salito al 7,9% dal 7,1% del primo trimestre del 2008. Si tratta del tasso più alto registrato dal 2005 e significa in sostanza che 221.000 persone cercano un lavoro in più rispetto al periodo precedente. Al nord passa dal 4 al 5,1%, al centro arriva al 7,6% dal 6,1% di un anno prima. Al sud invece il tasso di disoccupazione non aumenta di molto rispetto ai primi 4 mesi del 2008, si parla di uno 0,2% in più. Tuttavia il problema nel Mezzogiorno è che diminuisce in modo consistente la forza lavoro, cioè le persone in cerca di un'occupazione. È una specie di effetto scoraggiamento sulla possibilità di trovare un'occupazione, che produce quindi l'espulsione di migliaia di persone dal mercato del lavoro. E visto che stiamo parlando di lavoro e stiamo anche dando un po' di numeri raggelanti, parliamo anche di un aspetto, forse il più tragico, del segno direi più evidente di quando le cose non funzionano in questo settore. Sto parlando delle morti bianche, le morti sul luogo di lavoro. La cronaca lunedì ci porta tragicamente in Liguria, il racconto del corrispondente Andrea Ferro. Uno dei due operai è sceso lungo la scala di collegamento alla vasca per spostare una pompa idraulica che non aspirava. In un attimo ha perso i sensi. Un collega si è avvicinato per prestargli soccorso, eppure lui è stato subito colto da un malore. Il terzo componente della squadra, un tunisino, ha lanciato ai due colleghi alcuni salvagenti, poi è corso all'esterno per chiedere aiuto, tutto inutile. La rarefazione dell'ossigeno e l'alta percentuale di anidride carbonica hanno trasformato la vasca in una gabbia mortale. Francesco Mercurio aveva 40 anni, Gianfranco Iemma 36, erano cognati. Uno dei primi soccorritori, un geometra, è rimasto intossicato ed è ora ricoverato all'ospedale. È successo ieri pomeriggio nel depuratore di Riva Ligure, Riviera di Ponente. L'area è ora sotto sequestro. I due operai erano dipendenti della ditta che aveva vinto l'appalto per la manutenzione degli impianti. Secondo i primi accertamenti sarebbero entrati nel depuratore sprovvisti delle dotazioni di sicurezza. Per chiudere questa pagina economica ci spostiamo adesso negli Stati Uniti, perché mercoledì Obama presenta un nuovo tassello della sua rivoluzione, questa volta in campo economico. Il servizio è di Sergio Nava. Today my administration is proposing a sweeping overhaul of the financial regulatory system. Una riforma senza precedenti, la maggiore dal 1929, per rimediare a quello che, parole sue, è stato un fallimento dell'intero sistema. Così il presidente americano Barack Obama ha presentato nella East Room della Casa Bianca il piano per la riforma della finanza, primo passo necessario per adempiere le promesse fatte durante lo scorso G20. Il piano si pone 5 obiettivi: promuovere una supervisione e regolamentazione delle imprese finanziarie, instaurare una supervisione dei mercati, proteggere i consumatori e gli investitori dagli abusi, fornire al governo gli strumenti adatti per fronteggiare le crisi e incrementare gli standard di regolamentazione. Dagli obiettivi alle misure il passo è breve. Tra le principali vi sono l'attribuzione di nuovi poteri alla Federal Reserve, la possibilità per il Tesoro di assumere il controllo di imprese diverse dalle banche, la creazione di un'agenzia federale per la tutela dei consumatori e dei piccoli investitori, infine nuove regole per l'industria degli hedge funds, i fondi speculativi che hanno contribuito ad aggravare la crisi. Assume grande rilevanza soprattutto il ruolo della Fed, che avrà il potere di controllare qualsiasi istituzione finanziaria del paese, un potere che la renderà una sorta di super poliziotto della finanza. La proposta dell'amministrazione Obama, l'ultima di una serie di interventi anticrisi, passa all'esame del Congresso. L'obiettivo è l'approvazione entro l'anno, ma l'opposizione repubblicana promette battaglia. Mercoledì. L'OCSE, che abbiamo ricordato pochi minuti fa, parla di tante cose mercoledì, non solo di economia ma anche della scuola italiana. Il voto in pagella per il nostro paese è sotto la sufficienza. Sentiamo Savino Gallo. 372.000 bocciati tra il primo e il quarto superiore e circa 28.000 non ammessi all'esame di maturità. Sono questi i primi dati degli exit poll ministeriali sulla scuola italiana. Numeri non certo incoraggianti, ai quali fanno eco quelli raccolti dall'OCSE. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il livello di preparazione dei nostri studenti è nettamente inferiore a quello della media europea, a fronte di una spesa per alunno ben più alta degli altri paesi. Sui dati sentiamo il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. È un rapporto che mette in evidenza molte lacune della nostra scuola, ma credo che l'utilità di questo rapporto sia nelle indicazioni e nelle raccomandazioni rivolte all'Italia di puntare su alcune riforme che non sono più rinviabili. Penso alla necessità che ci siano meno insegnanti ma meglio pagati, motivati attraverso un sistema di incentivi e di valutazione. Riforme, ha concluso il ministro, che dovranno essere condivise da tutto il Parlamento in modo da poter durare molto più a lungo della legislatura in corso. Il ministro Gelmini, tra l'altro, lunedì aveva dovuto fronteggiare una contestazione a Milano. Sono giorni un po' difficili quindi per il nostro ministro dell'istruzione. Sentiamo il racconto in diretta nel GR delle 7 di martedì di Marta Cagnola. Tornano le proteste contro la riforma della scuola, non da parte degli studenti universitari dell'Onda, ma di genitori e soprattutto insegnanti dell'Assemblea delle Scuole del Milanese, che hanno impedito ieri la presentazione al Mondadori Multicenter di Milano del libro di Mario Giordano, 5 in condotta, con il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. I manifestanti, li state sentendo, hanno issato striscioni contro la riforma della scuola e consegnato finte pagelle di bocciatura per la Gelmini. Dopo diversi minuti l'incontro è stato annullato. La scuola è il luogo in cui i giovani passano probabilmente la maggior parte del loro tempo, comunque una parte consistente, poi crescono e qualcuno i nostri giovani fa bravate, tipo quella che ci ricorda in questo servizio da Venezia Silvia Menetto. Nel Veneto, regione record di incidenti stradali, le storie di ordinaria follia al volante sono all'ordine del giorno. Gli ultimi due casi eclatanti riguardano dei ventenni o poco più. Ricordate i due ragazzotti polesani che 3 anni fa si erano lanciati a 240 km all'ora lungo l'autostrada A13 Padova-Rovigo e poi avevano filmato la loro bravata per metterla su YouTube. I due sono stati giudicati con rito abbreviato dal Tribunale di Padova. Tommaso Cestarollo è stato condannato col patteggiamento a 5 mesi e 10 giorni, ma solo per aver inserito il video in internet. L'accusa infatti era quella di istigazione a violare le leggi. E così il compagno Enrico Guariento è stato assolto perché non è stata provata la sua complicità nel mettere in rete il video contestato. Come due novelle Thelma e Louise invece, due ventenni hanno seminato il panico a Treviso scappando in auto sul filo dei 190 km all'ora. Le ragazze, uscite da una discoteca, avevano saltato un posto di blocco, per questo sono state inseguite e poi bloccate da una pattuglia della polizia. Arrestate per resistenza e tentato omicidio per aver cercato di investire un poliziotto, sono state condannate a 5 mesi di carcere. L'ottavo giorno. Giovedì. Tra poco arriveremo, come abbiamo ampiamente annunciato nelle altre parti dell'ottavo giorno, a parlare della politica italiana che ruota principalmente attorno all'inchiesta di Bari, ma parliamo rapidamente anche della Fiat, perché giovedì c'è un passaggio importante nella storia di questi mesi della Fiat, perché Marchionne, l'amministratore delegato della Casa di Torino, va a Roma e incontra il governo e i sindacati per esporre il suo piano che riguarda l'Italia. C'erano naturalmente attese e qualche apprensione, sentiamo com'è andata nel servizio firmato da Paola Cavani. Di fronte alla crisi bisogna razionalizzare la produzione, ma non chiuderanno gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese. L'amministratore delegato di Fiat, Marchionne, ha presentato ieri a governo e sindacati il piano di ristrutturazione dell'azienda. Non si può immaginare un gruppo Fiat senza radici in Italia, ha detto. Pomigliano manterrà dunque fino al 2010 le linee produttive esistenti, mentre Termini Imerese dal 2011 non produrrà più auto. 3 tavoli tematici su occupazione, ricerca, innovazione e componentistica garantiranno il confronto sul lungo periodo. Per il ministro Scajola dall'incontro è emersa la conferma degli stabilimenti industriali in Italia, senza licenziamenti, con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Soddisfatti i sindacati, che da tempo ormai chiedevano un confronto sul futuro di Fiat. CGIL, CISL e UIL tuttavia non abbassano la guardia e si dicono preoccupate per il futuro degli stabilimenti al sud. Il segretario della CGIL Epifani: ci sono delle cose che preoccupano, il futuro dei Termini Imerese. Che cosa vuol dire fare altro? Non si capisce, troppo generico. Venerdì. E siamo dunque arrivati alla fine di questo viaggio nell'ultima settimana e per ultimo ci siamo tenute le vicende interne della politica. Naturalmente, lo ricordo, noi di referendum e di ballottaggi non possiamo parlare perché oggi è giorno di voto, quindi siamo obbligati dal silenzio elettorale a soprassedere a questi importanti avvenimenti. Naturalmente ci risentiremo tra una settimana con i risultati dell'uno e degli altri. Dobbiamo anche, per ragioni di tempo, sorvolare su tante altre questioni importanti, le ultime vicende per esempio attorno al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura, la protesta dei terremotati che è venuta fino a Roma e poi le polemiche attorno alle ronde. Ci concentriamo praticamente esclusivamente sull'inchiesta di Bari e sulle premesse, soprattutto poi sulle conseguenze che ha scatenato questa inchiesta a Palazzo, in quella che è diventata una sfida ormai sempre più cruenta tra maggioranza e opposizione, Berlusconi da una parte e l'opposizione dall'altra. Cominciamo da domenica con Berlusconi da una parte che agita gli spettri del complotto e delle elezioni anticipate e dall'altra D'Alema che, intervistato dall'Annunziata su Rai 3, annuncia delle scosse, una frase poi che farà molto rumore in settimana e soprattutto dopo gli sviluppi dei giorni successivi scatenerà davvero un mare di polemiche. Sentiamo allora Elisabetta Fiorito nel GR delle 7 di lunedì mattina. C'è chi parla di scosse, chi di eversione, ma anche di abbronzatura. Non si risparmiano i colpi nello scontro politico. Ad intervenire l'esponente del PD Massimo D'Alema, che risponde al pericolo di eversione invocato dal premier Silvio Berlusconi. Per D'Alema, Berlusconi è in declino. Io penso che la vicenda italiana potrà conoscere delle scosse, non c'è dubbio, anche perché Berlusconi non è un uomo che accetti volentieri l'idea di un suo declino politico o umano, che poi sarebbe nell'ordine naturale delle cose. È un uomo che, animato da un mito di eterna giovinezza, e questi miti sono sempre pericolosi. Dal canto suo il premier vola negli USA, bello e abbronzato, dice, per incontrare il presidente Barack Obama, riferendosi così alla gaffa all'indomani dell'elezione alla Casa Bianca. Poi Berlusconi rilancia sull'ipotesi di un piano eversivo nei suoi confronti. C'è un progetto eversivo molto chiaro, questo sì. Abbiamo visto che c'erano state delle correzioni di qualcuno che io non, con cui non ho parlato. Io volevo dire quello che ho detto parlando con i giovani industriali e quello è. A D'Alema risponde il portavoce di governo Paolo Boniaiuti. D'Alema ha preso un colpo di calore. Siamo solo all'inizio della settimana e della storia di questi giorni davvero concitati. Poi tutto subisce una accelerazione perché l'attenzione si sposta improvvisamente su Bari, non per le elezioni comunali, ma perché si aprono delle indagini, almeno arriva la notizia sui giornali di indagini, che toccano il Premier. E tra l'altro circolano accuse molto pesanti anche sul piano dell'immagine interna e soprattutto internazionale. Infatti il reato tra quelli contestati più significativo è quello dell'induzione alla prostituzione. Dalla Puglia la cronaca di mercoledì di Giovanni Longo. Alcune ragazze che avrebbero partecipato a pagamento a feste esclusive nelle residenze del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sono state ascoltate dagli investigatori nei giorni scorsi a Bari. Anche Gianpaolo Tarantini due giorni fa è stato sentito dal PM inquirente Giuseppe Scelsi in una caserma della Guardia di Finanza. L'indagine per induzione alla prostituzione in luoghi esclusivi di Roma e della Sardegna c'è. L'inchiesta che coinvolge Tarantini, responsabile con il fratello Claudio della Tecno Hospital, società varese che si occupa della fornitura di tecnologie ospedaliere, sarebbe scaturita da elementi acquisiti nell'ambito di accertamenti per presunti episodi di corruzione relative a forniture di protesi. Numerose intercettazioni ambientali sarebbero alla base del nuovo filone investigativo in cui si ipotizza che l'imprenditore abbia contattato e inviato in residenze private del premio alcune ragazze. Non intendo rilasciare alcuna dichiarazione su questa vicenda, dice da Roma, dove si trova in questi giorni il giovane imprenditore barese. Patrizia Daddario, invece, la donna intervistata dal Corriere, che sostiene di aver partecipato a due di queste feste, è introvabile. Nella palazzina del quartiere Libertà, dove vive, i vicini non la vedono da almeno un paio di giorni. Sui giornali, soprattutto certi giornali, è questa la notizia della settimana che occupa davvero più spazio, persino più dei disordini e della situazione in Iran. C'è una incredibile dovizia di particolari, di foto, insomma mancano soltanto i video che peraltro la Daddario dice di aver girato e di aver consegnato agli inquirenti. Poi spunta anche la cocaina, mentre Ghedini, avvocato solitamente impeccabile, quasi infallibile di Berlusconi, scivola in settimana su una frase infelice, dice che insomma in ogni caso se fossero vere tutte le accuse mosse contro Berlusconi, lo stesso Berlusconi sarebbe soltanto l'utilizzatore finale, ma non colpevole di nulla, è questa espressione utilizzatore finale amareggia molto soprattutto le esponenti donne del centro-sinistra. Ieri intanto poi arrivano anche i dubbi di Fini che insomma mostra le sue perplessità sulla credibilità delle istituzioni a questo punto della situazione e anche l'Avvenire, giornale dei Vescovi, quindi voce del mondo cattolico italiano, invita Berlusconi ad un chiarimento. Berlusconi che intanto affonda il suo colpo venerdì, cioè ieri, e sentiamo il servizio su questo di Andrea Viali. A Bruxelles Silvio Berlusconi liquida con poche battute gli sviluppi dell'inchiesta di Bari. Solo immondizia, non rispondo a domande sulle comiche, spiega il Premier incontrando la stampa dopo il Consiglio europeo. Io poi di spazzatura me ne intendo perché a Napoli l'ho fatta fuori, farò fuori anche questa. Secca poi la smentita delle voci su presunte manovre di palazzo contro di lui. Tutto quello che si legge sui giornali di complotti all'interno del Popolo della Libertà sono tutte storie di fantapolitica. Non ho mai lavorato così bene con Giulio Tremonti come da un anno a questa parte. Berlusconi poi se la prende con i giornalisti anche per la sua telefonata catturata da una telecamera di Sky, una conversazione con il suo legale Niccolò Ghedini nella quale il Premier si era lamentato per i titoli di alcuni quotidiani. Eccone un passaggio. Chiamo subito Paolo Boniaiuti e gli dico di fare un comunicato perché qua ci sono anche cose in altri titoli che non ho assolutamente detto. Non ho mai parlato di un complotto oscuro, non ho mai detto che temo di essere spiato, non ho mai detto il mio avvocato è uscito pazzo, non ho mai detto l'altra cosa che adesso appena visto che mi ha fatto incazzare, risponderò col mio suo colpo. Siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora l'ottava notizia da ricordare di questa settimana e ne approfittiamo per ricordare appunto un grande pensatore del Novecento che è scomparso giovedì. Salvatore Caruba. Filosofo e sociologo tra i più importanti del Novecento, Ralph Dahrendorf non sfuggì alle responsabilità pubbliche, anzi riuscì a essere prima commissario europeo per il suo paese di nascita, la Germania, poi membro della Camera Alta del suo paese d'adozione, la Gran Bretagna, che nel 1993 lo fece Lord, anzi per la precisione Barone di Clare Market. Se cambiò passaporto, Dahrendorf non rinunciò mai alla sua fede liberale, fu anzi uno dei pensatori più originali e innovatori del secondo dopoguerra. La sua visione di una società mossa e animata dal conflitto lo rese un'icona per chi negli anni 70 si batteva per svecchiare il liberalismo dalla patina conservatrice che lo aveva deformato. Quando 20 anni fa crollò il comunismo, che aveva diviso in due il suo paese, insistette sull'esigenza di ricostruire una società civile e sull'urgenza per il liberalismo di quadrare il cerchio, di coniugare libertà individuale e solidarietà sociale, di mostrarsi capace di tenere unita una società. Su questo avrebbe avuto ancora molto da insegnarci. Abbiamo finito anche con la puntata di oggi dell'Ottavo Giorno. Vi ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio particolarmente Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.